c'è qualcuno su 10, cambio. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Hola. Attenzione 10. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola, prova. Hola, 1, 2, 3. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambi. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avanti, chi è? Pip, pip. Oio, chi è avanti? Chi è avanti? Categoria di grigio, c'è una taragliana. Ma ti sembrava di rientrare? Adesso ti paghi la busta. Ah, vai dentro, c'è la chiusura. Sei tu che sei rientrato tardi. Ah, io sono entrato presto, non tardi. Perché io ci sono dalle 6:30. Io sono andato a pigliare la signora, ho preso qui un terreno. Quindi, anch'io ero qua alle 6:30. Andava. Buonasera comunque, non sei uscito, non ti mireva? Buonasera, io no, sono stanco, stamattina ero in palestra e mi ha stancato un bel po', sono duri a fare quegli esercizi, dopo tanto tempo che non vai in palestra è allucinante. Ti grido che ti prova, è tutto, è per quello. Piano piano già passa. Cazzo, rimani. Dopo che ho finito di fare gli esercizi sono andato a alzarmi e mi è venuto capogiro. Mi ha detto si sieda, è normale, è la prima volta ha fatto così. Cazzo, gli ha capogiro. E lo fa. Ha fatto un buramme e l'ha fatto. Avevo. Perché sto facendo esercizi di respirazione poi accompagnati, per dire, con le gambe. Ci ha fatto fare un esercizio, cazzo, che tutti i muscoli del corpo comprende, quelli degli occhi, delle guance, della fronte, e piano piano prima quelli della fronte, poi abbassi quello degli occhi, poi quelli del collo, poi quelli delle braccia, dell'avambraccio, poi scendi giù della coscia e poi quello del polpaccio. Te li fa ammassare a uno. Ha fatto i massaggi così e piano piano gli ha passato tutto. Ti sta provando adesso. Piano piano, vedrai, da voi non senti più nulla, più che fare l'esercizio non hai. Cazzo, 10 volte devo andare. 10 volte, per 10 volte. Sono pochi 10 volte. Ok, cazzo, ogni esercizio che si va giù qua, ti grima. Sono pochi. Io quando sono andato io ne ho fatto 25, me ne ha fatto fare. E poi mi sono riuscito alla fine, credo che volevo continuare, abbia finito. Dove l'hai fatto tu? Aspetta, dov'era? In via Armando Diaz l'ho fatto. Alla palestra, aveva appena, se no, aperto una settimana, aveva aperto questo. Ed era già piena. No, io all'Ares l'ho fatto, e l'Ares è conosciuto a Sassari, è un centro di riabilitazione con tutte le cose, anche per incidenti stradali, tutte queste cose qua. No, io, a me mi hanno mandato dalla ditta, mi hanno mandato. Ma dite che aveva avuto l'incidente con la moto e per fare il coso mi hanno mandato lì, aveva appena visto. Con la moto della rete urbana? No, con la moto mia. E il coso, ha mandato la lettera, se volevo fare il congio lì oppure andare, invece del datore di lavoro mi ha mandato lì, mi ha mandato, hanno scelto loro, hanno scelto. Ci hanno impagato tutto e adesso che è andato da lì. Oggi la signora doveva fare laser e poi non so che cosa, 280 euro, cazzo, se ne è fuggita. Laser? Quella io l'ho fatta, due volte l'ho fatta, quello lì, tutto pagato sempre dalla ditta. Infatti che hanno giubilato tutti, che l'hanno mandato un conto. Ma è già mandato Trento, fin chi è che lo paga questo conto qua? Voi, ma avete mandato voi e voi che lo pagate. Ecco preso. Vabbè, ma loro non accettavano con l'incidente che ha avuto tutto. Ha pagato tutto dall'infortunio. Ti preoccupare, che l'infortunio poi gli risarcisce a loro. L'infortunio vale mezz'ora prima di entrare a lavorare e mezz'ora dopo che esci. Se tu hai un incidente dopo che esci o mezz'ora prima di andare a lavoro, te lo paga. Sì, infatti l'ho avuto andando al lavoro. Siamo mezz'ora prima. No, mezz'ora, ma 20 minuti prima che stavo andando al lavoro, ero quasi arrivato, ci butti. Sai cosa mi è successo? Ho visto il negozio tutti, quel negozio che c'è dove avevano raffinato anche. Lì all'incrocio mi è successo. Ah, dove c'è la rotatoria? Dove c'è la rotatoria, però prima di partire alla rotatoria c'è che arrivi dei tipi, adesso con il cicato una volta e mi si è girato Rubini, mi si è girato. Al piede mi ha pigliato sia il piede che la gamba e mi sono fiato tutto, tu dovevi vedere bene come ti sei fatto. E me lo posso immaginare. Che moto ci avevi? 150 ci avevo della cosa, uno scooter era, uno scooter 150. Allora la pedala che ti è passata sopra, che ti è andata sopra, così. Oh. Cioè, stavo dicendo, come scivolata, ma mi ha preso il piede, me l'ha trascinato e me l'ha girato. E beh, così mi ha fatto anche la caviglia. E su all'INA, quando me l'hanno controllato, no? I vagiani non lo vedi davanti, e perché avevano gonfio davanti, no? Però il dolore io ce l'avevo nell'osso, ce l'avevo dietro, certo, dietro al fianco dove c'è l'osso. E gli ho fatto al medico, scusi, ma cosa sta facendo? Guardi che il dolore non è lì, è qua nell'osso. Ah, lì nell'osso c'era. Voi state sempre controllando lì, ma io il dolore non è lì, ce l'ho lì. Mi hanno controllato dove mi è arrivato il dolore, l'orologio, la lastra. Ho guardato e c'era ancora. Dopo io un mese, e sono andato e mi hanno dato altri 15 giorni. Ma all'INAIL sei andato, non all'INA, ma all'INAIL, alle fortune sul lavoro. E all'INAIL, sono in via Mendola. Ho capito. Quindi chi è il conduttore, che è un bastardo. A me mi ha tirato la gamba e quando, se non ce l'avevo, me l'ha fatta lui la frattura. Invece a me mi ha fatto di chita maniera. Lo fanno apposta per vedere se c'era davvero il dolore, capito? A Giacuto un sicchino sono entrati tutti gli altri medici e tra questi medici c'era l'amica mia. Tu Gianni, cosa è successo? Il tuo collega mi ha tirato la gamba e una mossa strategica, ha detto. Una mossa strategica, imbecille. Oh, ma a me mi toccava di dire, non riusciva, ecco, guardi che non è lì il dolore, ha detto. Il gonfiore forte non ce l'ho lì, lo ce l'ho dietro qua nell'osso, è lì che ho beccato da tutto quanto. È lì che c'ho il dolore forte, che mi prendo anche gli antidolorifici. oltrepassa il mio dolore. Ma ha toccato come mi ha toccato, oggi comincio a brincare a seccare a... Ma ormai mi si riesce in una frase, ma mi si riesce lì. Io praticamente lo conosco, che era spappolato, e mi ha detto che non mi conveniva farmi operare perché sennò mi si prova a avere reumatismo, e tu non si preoccupi. Ho fatto fare la rasa e con ragione che lì c'è dolore, è tutto spappolato, il menisco vuole tolto, almeno la metà del menisco vuole tolto. E ho dovuto fare l'operazione anch'io, capito? E ogni volta che andavo a farmi la visita mi diceva, domani la faccio rientrare, e lei mi faccia rientrare, mi vado dall'avvocato, io faccio fare il foglio dall'ortopedico, vado dall'avvocato e la denuncio. E così l'ho detto. E a me mi ha portato a farmi la lastra. Ma l'ha fatto la lastra dopo di 10 minuti che gliel'hanno portata. Si vedeva l'osso un pochettino toccato e il gonfiore si vedeva anche. Certo, mi ha baidato, dice, mi ha baidato in faccia e si è portato di... Ah, di tu! Proprio da ridere mi ce n'è. È tutto questa signora, cioè cos'è signor Pinda, cos'è? Vedi che a me, che la devo assistere io, non lui. Ah, mi ha toccato qualcosa, mi ha fatto la lastra e mi ha fatto vedere le stelle. Contateli, no, non le ho contate, ma se le avevo contate, ero riuscito a prendere, le avrei tirate a faccia, le avrei tirate. Caspita, bello di toccare. Perché hai fatto male gli altri? Mi ha fatto male alle stelle anche, se io sto dicendo. Certo, si può tardi di... Ma te l'hanno tirato per metterlo a posto o te l'hanno ingessato? No, qua dall'ospedale mi avevano fatto questa specie di coso in polistirolo. La scarpa in polistirolo mi hanno invato. E me l'ha messa, me l'ha fatta giusta, però mi toccava l'osso, mi toccava. Allora io me l'ho sagomato, me l'ho giocato più bene, e non mi toccava. Ed ero tranquillo, finalmente. E poi già, con la ciabatta, ho preso una ciabatta, perché eravamo anche d'estate. La ciabatta, poi già tutto. Così in agosto mi è successo, mi ha giocato il bene. Ma adesso mi pare che non ingessino più, che mettono queste cose qua, diciamo, per ingabbiare la parte e basta, tutto lì, queste cose ortopedici. Il tutore si chiama, ecco il nome, non mi usciva, il tutore. Dice che gliel'ha fatto questo che non mi ha visto. Ma l'ospedale me l'hanno fatto per poter camminare, se no mi toccava camminare con le stampelle. Infatti sono andato con le stampelle, me l'ha giù fatti vedere, poi me le ha proprio a camminare, a vedere se riesce a stare senza la stampella. E rubicchia, poco rubicchia, però non lo sai che mi va di ancora male. E loro fanno le prove, capito? In altallasi, a me ci avevo il menisco fratturato, casere mattina duranca, e mi ha fatto vedere le stelle, e lo zicchino mi ha inteso tutto. Sì, no, a me, aspetta, mi sono giunti, mi è giunta questa dottoressa che mi doveva assistere lì, e quest'altro medico. Il altro medico dice, non è nulla, infatti non è nulla. Cioè mi era rimasto vicino, l'aveva strangurato, l'aveva detto. Cioè mi si avvicina ancora lo stranguleggio dal dolore che mi ha fatto venire. E se te c'è stanotte mi tocca prendere gli antidolorifici, cioè io ero tranquillo, invece dove mi ha fatto venire i segni. Dice, contateli, anche lei ci può girarmi le cose. Riposo Mario, signor Pinna, non ci dicono, ma quasi, ha già fatto così. Io ho dato un pugno e l'ho fatto andare nell'altro letto, quando ero caduto nelle scale, mi avevo sbattuto la schiena e mi avevano aperto perché c'avevo un buglione pieno di di sangue e peso. Mi hanno aperto, mi hanno inciso, mi hanno fatto uscire il sangue, mi mettevano le gambe, me le tiravano di colpo, mi facevano vedere le stelle, mi hanno messo la pancia a terra. Questo dottore mi stava tirando la gamba, con la mano tirata mi sono guidato, ma non l'ho fatto per male, l'ho fatto per istinto. E di cui il cagno a taffa ci ha deciso la tabacca, io non lo medico più questo qua. Tanto delicato il gioco di Ragusa. Infatti la signora poi qui fatti finiti 15 giorni sono tornata a andare, me l'ha toccato, mi fa male, poco a poco mi fa male, però la notte non riesco a dormire perché c'ho il dolore, mi viene la notte, mi viene, allora mi devo prendere l'antidolorifico. Ah, me ne ha dato anche 20 di menaggio fatto. Ha già venuto un mese di settembre, ha già venuto. Ah, mi ha già fatto rivedere, due mesi di veri mi ha già fatto. Finiti 20 giorni mi ha mandato, mi volevano mandare a coso. Allora ci ho pensato la ditta e mi hanno mandato a fare terapia. Ma sono andato in chita palestra, cazzo. Tu prima mi ha fatto iniziare a pedalare piano piano, poi mi ha fatto il coso con il laser mi faccia del dolore. E la notte dice a dormire, ah finalmente, e non ti diavi il dolore. E poi piano piano mi ha fatto fare il movimento per 25 giorni. Ma ne fatto va. Che ne avevo finito di 25 di e ho gridato di continuare, invece dice abbiamo finito. Ma ne va il piede, va benissimo. Adesso comincio. E sono dovuto andare, poi come ho finito, ho dovuto andare a tornare al coso, all'infortunio, a farglielo vedere, mi hanno educato, dice signor Pinna, lei può rientrare. Ah, benissimo. E sono rientrato, dopo due giorni sono rientrato, che mi hanno dato loro. Sono entrati quasi alla fine di settembre, sono rientrato. E poi c'era il medico del lavoro che mi doveva visitare, si è toccato una sacchetta senza far nulla a Napo, però senza fare nulla. Proprio in estate ti è successo? In estate, se te lo sto dicendo che mi era successo in estate. Certo, va via Rubini, che era diventato niente, niente era diventato. Non fammi dopo di niente. Oh yeah. Per carità, una volta sono caduto in moto per colpa di una sosa che ha frenato di colpo, come ha frenato mi ha pinzato la moto e da ferma lì si è girato il manubrio, sono caduto e ho preso quel cordino che c'è sulla Budi, prima ha visto che era tutti e due in un senso appena che avevano fatto la strada, che stavano facendo l'altra parte. E io sono sceso con la moto nuova, al caso questo qua mi frena di colpo, dice che stava provando i freni, ma quando mai lo prova in breve se sa mettere se vede ti ha da lì. E questi hanno butti da me mi pure la macchina. Chi se la provende di freni, frena di colpo, boom! Ha detto, brava! Cazzo, non uso qui che prende di colpo. Stavo provando i freni, sì, ma secondo me non ho mai da dare due capelli. Ma mi ha fatto così. Prima io me l'ho fatto male, avevo tutto nero, completamente, pancia, un ematoma grande, mi ha preso anche le parti basse, sembrava un negro. Cazzo, tutto unito, la coscia, poi va tutto al cordolo che c'è di cemento, fate un gol. Poi lì ho chiamato i vigili, io sono venuti i vigili. E questo, ma no, non ce n'è bisogno, facciamo, siamo i vigili, che non mi potete più, meglio fare il dojo. Ma io devo controllare. Il vigili, e cosa c'è? Il signore ha frenato di colpo, provando il freno, ha frenato di colpo e io sono andato a finirli addosso. Non mi ha dato il tempo neanche di cose che... Dove comanda la figlia, fatto da libretto e patente, e aveva senza revisione, dice pure. Ha detto, oi. Tanto la patente mia era il libretto, avevo tutto a posto. Dice, sono andati diversi mandati. Ho detto, non ti preoccupare, poi si abbatte. Tanto mi sono buttato di puro. Allora dice, vengo in scia. Dice, adesso si paga la macchina sua, la gioia. E più si pagherà la revisione, si pagherà 1.000 euro di multa. Ma non ti hanno contestato la distanza di sicurezza? Di subito contestano il fatto che tu non hai mantenuto la distanza di sicurezza, perché se tu prima di colpo tu hai la distanza di sicurezza non ti sbatti. Se sei troppo vicino invece puoi andarli addosso. È quello che loro contano sempre. Mettiamo da me. Comunque senza revisione non ripagano manco la macchina, manco a te fanno l'assicurazione, perché lui non è ammesso a circolare senza avere la revisione, non può circolare su strada, quindi l'assicurazione non paga né a te né a lui. A me mi hanno pagato, perché io ho dato in mano a questi qua, gliel'hanno contestata, e le cose di sicurezza io ce l'avevo, un metro, ero distante un metro, ma tu che vengo di freni e dei golf così non fai in tempo a frenare. Ecco cosa è, che mi ha bloccato le cose, io cosa la distanza di sicurezza ce l'avevo, infatti la frenata era un metro e 40 era, quando hanno fatto le misure. Se noi ci apparecchi di voi con la signora mai si è fatto, cazzo voglio facendo il giubbotto della moto, tutto quanto, la moto nuova nuova era, una settimana ce l'avevo, comprata nuova, cazzo ma poco con i miei gappini, ho pagato 600 euro di carene, tutte le carene nuove le ho messo per non verniciarle, perché erano tutte graffiate, con tacchi nuovi ci si è spaccato. Poi io da me mi hanno messo tutto il frontalino di davanti, mi hanno messo, che era tutto in plastica, le luci di sotto, una c'era in fasciata e l'altra c'avevo a penzoloni, e un faro nuovo mi hanno messo e poi la verniciatura c'era, tutto dalla Ford. E l'Inter si ringrazia, così è. Ho tutto alla Ford, ma hanno fatto, e se è andato a ritirare l'assegno, e ho detto, cosa volete, l'assegno? No, ci dia l'assegno, mi hanno indurrato un ritmo pure. 180 euro mi avevano tornato. Vabbè, c'è anche guadagnato qui. E sono stati onesti, perché solitamente si deve niente. Vabbè, comunque ti è andata bene, perché di solito chi tampona ha sempre la colpa, anche se per regola, diciamo, che come regola generale è sempre la colpa, ma se tu pensi che quello lì poteva evitarlo, hai ragione tu, perché nel senso che se uno deve frenare così, o va in un posto libero per fare queste prove e non lo fa su strada, oppure guarda dietro, adesso c'è gente, quando mai uno frena così di gola ci fa già ammazzare. No, prima di tutto in strada lui non ci doveva manco andare, perché doveva fare prima la revisione, doveva fare, poi secondo devi avere un coso di rulli, devi avere per i freni, devi avere il coso dei rulli, devi avere delle cose di revisione, ecco, e i freni li provi così, il vigile gli ha detto, perché non l'ha portataci i rulli alla revisione, e li provava così i freni, l'ha detto, non è in strada, non si provano così i freni. Ma sa, non sa nulla lì proprio, che non si prova, e poi deve guardare dietro chi c'è prima di frenare. L'hanno sequestrata la macchina? L'hanno fermata, e gli ha detto, dice, guardi, ce l'ho a fianco in officina per fare la revisione. Allora sono andati in officina da lui, gli hanno ha fatto la revisione, eh? Poi la multa gli è rimasta, 1.000 euro di multa. È più conto. Quando chiami le forze dell'ordine, qualche cosa la devi sempre pagare, perché qualche cosa ce la fanno pagare sempre, perché se intervengo, l'intervento te lo fanno pagare. O trovo una scusa, o trovo l'altra, si va a ripagare sempre la multa. Quindi il contravvenzionato va a pagare 280 euro solo. Invece quando ho visto che non c'aveva revisione, gliel'hanno contestata e si è pagato 1.000 euro invece che 280, 1.000 euro per la revisione. Abbiamo tolto ancora 280, non è brutta che sia di 1.000. Ah, te lo conto, è riuscito a contare il dubbio. E tu ci hai pagato i danni. Più ragione mi ha fatto, da non caere. No, facciamo il coso di revisione subito, le cose per l'assicurazione, un grado non voglio, tutto quanto, ho messo tutto quanto i dati dal coso mio, il nome e cognome, ho firmato davanti a Eddy e poi l'ha portata all'assicurazione. L'indomani già che è andata, perché questa aveva portato il coso all'assicurazione e gliel'aveva portato. Dice il signor Pinna, lo chiamerà il coso a fargli il perito, a fargli la fotografia e tutto. Tanto aggiungiamo due assicurazioni mia, a dirgli, come ritira tutto, il modo e tutto quanto, venga qua. Adesso sono andato da Chicatere, arrangiatevi voi. Yeah. Il CID ti ha fatto fare? E il CID ha fatto, davanti a loro, davanti ai vigili, ha fatto tutto. Ossia che fuggia, chi tu, tutto canto. Se c'è una sfida, no, oggi non mi vedo più di nessuno, manco di me mi vedo. Figuriamo se dell'altro. E non fa più non affidarti. C'è quello senza assicurazione, c'è quello senza revisione. Devi stare attento, perché c'è gente che circola senza assicurazione, magari ti sicuri ed è un casino, perché non ti paga nessuno. Sì, un'altra volta mi si sono fatto a Darito. C'è la rampa dove scendi a metterti sulla 131. Hai visto che si entra dove c'è il ristorante, barbiere, tutto quanto, che devi girare a sinistra, che non si può girare, che c'è la doppia striscia, che è un bel gira nei chili. Lì è che mi si è costruito. No, era vedendo il giro telefono e mi si è cuto. Vabbè, succede, non bisogna toccare il telefono quando sei in macchina, devi avere Bluetooth, se devi parlare parli con Bluetooth. A me mi arrivano anche i messaggi, tutto quanto, i messaggi vocali mi arrivano. Anche a me arrivano, sono a radio che mi chiamano il telefono, mi scuola dalla radio, mi scuola. Vedo tutto, chi è, chi non è, tutto mi si vede. Sì, anche io. C'ho il touch screen, con Bluetooth. Infatti, vedo il nome di chi mi chiama, un bel di volte mi chiamano di Italia. Non lo faccio squillare, lo metto muto, lo metto. Adesso questi call center stanno facendo i furbi, mettono un numero normale e non ti appare spam, la scritta spam, non ti appare, mettono un numero normale e praticamente ti arriva la chiamata, tu vai a rispondere solo a loro sempre. Ma a me mi arriva Italia, mi arriva. Capito, ma arrivi in Italia che lo vengo già nella radio che nel telefono. Non rispondo. Signor Pinna d'apparecchio, che lo stiamo cercando, caspita. Ma siete rompiballe, mi raggiungete. Caspita, siete rompiballe siete. Io sto circolando con la macchina e mi arriva il coso del vostro. Io non posso attaccare a parlare alla radio e mi prendono in giro così. Caspita, anche il vigile se ne è accorto. Io vado, metti che l'ha telefonato e nel tecnologia. E detto, buongiorno signore, dovrebbe cambiare il contratto perché il suo non conviene quello che sta facendo. Gli hanno chiesto che contratto c'aveva e lui ha detto, ma io lo devo cambiare sul contratto. Guardi che lì paga di più, di se mette l'energia paga di meno, se no paga di più. E lei come fa a sapere quanto pago io? E ho detto, perché si sa che le altre sono sempre superiori a quello che facciamo noi, le offerte. Dice, non penso il pupolo, io mi attacco al vicino di casa e non pago nulla. Dico preso, l'hanno sgamato, l'hanno mandato, magari l'hanno mandato subito i carabinieri, l'hanno mandato. Nel senso certo, guarda. Siete tutti rigorosi, non intendete che fai niente. No, io a me mi hanno fregato che hanno fatto il coso senza coso mio. E la cosa era registrata, ma l'hanno fatta sentire e dice, guardi, lei ha detto sì, quindi noi ci siamo. E vabbè. Ho chiesto al coso che ho io, all'energia, e mi ha detto sì, deve stare attento a quello che dice, così è. Allora facciamo, gli faccio fare un mese, al prossimo mese entrate voi. E la giubbottiti, solo che loro ti fanno pagare di molto, ma molto di meno ti fanno pagare. Guarda, se lei ti fa pagare 120, loro ti fanno pagare 80. Cosa c'hai tu? Energia? Energia. Mi c'è entrato questo Wish, mi c'è entrato. E fino a giugno devo stare con loro. Hai compreso? Gliel'ho detto a quelli dell'Ene, sì, signor Pino, va bene lo stesso. Sono nostri clienti lo stesso, è il nostro coso. Sono seguiti da noi, va benissimo lo stesso. Ci sentiamo al 1° luglio. Ok, andava. Ma com'è non si arrabbiegiano? Allora io ho contratto un fisso. No, ce l'avevo per un anno, io dovevo rinnovarlo. Ma cioè, sono ben entrati loro, sono ben entrati, hai capito? Io dovevo chiamare il numero verde, dovevo chiamare. Infatti adesso quando io del coso con loro, rimango un anno io con l'energia, prima di scadere chiamo il numero verde e rinnovo il contratto, così rinnovo. No, io ce l'ho fisso, ho preso l'energia, l'avevo preso anche per il telefono, però come ditta per l'energia elettrica va bene, ma per il telefono mi hanno lasciato desiderare, prima non mi hanno mandato il modem, poi mi è arrivato in ritardo, prima mi hanno mandato prima il tecnico a piazzare il modem prima di arrivare, il tecnico è venuto e non c'era il modem. Poi ho aspettato 30 anni per arrivare al modem, quando è arrivato l'ho rimandato indietro e ho dato la disdetta, non ne voglio più sapere. Il telefono mi sono messo Fastweb, che è uno dei migliori che c'è, e poi niente, ho messo Fastweb e l'energia per l'energia elettrica, però per il telefono e l'energia non serve a nulla. Si sono lamentati tutti. Sì, no, io sono squaccio, non vado i minibodi, non lo fa. Quindi non vi penso nemmeno, c'ho un minibodi, dico, mica vado a rinnovarlo. E ci pensa lui, allora lo rinnova lui. Non ha più del code. Chietta, che andiamo via, andiamo. Comunque, io poi ho parlato con altre consente, mi hanno detto che l'energia va bene per l'energia elettrica, ma per il telefono dice che si lamentano tutti, che non arriva il modem, poi arriva in ritardo, e sono stato 2 settimane senza telefono di casa, ma stiamo scherzando. Io il telefono di casa ce l'ho solo perché c'ho internet e l'attacco al modem, se no non avrei avuto, non mi avrei messo il telefono a casa. Però ce l'ho perché c'ho internet, c'ho la wifi e internet. Io c'ho soltanto il modem, il telefono ne ha giù gavato, non ne sto usando io il telefono, sto usando il telefono mio, sto usando. Certo, ti devi pagare pure cosa del telefono, devi pagare. No, il mio è compreso con la wifi, capito? Io pago per dire, cosa ti posso dire, 20, 25, 20 euro al mese. E poi praticamente c'è compreso sia il telefono che il wifi, capito? Sì, vabbè, no, io ho solo il modem, mi piace, si vede dai nodi. Bianco, gru puntino, avai. Prima aveva tre lucette, invece adesso ho questo puntino. E mi va la luce la notte, quando me ne devo bisogno da panna in bagno. Perché tu te lo lasci attaccato, io ho la ciabatta e lo spengo, di modo che se no gli altri sanno che tu c'hai internet e si collegano a te e non pagano internet, sarà la cianduia. No, perché c'ho il codice io. Ma c'ho il codice e non entra nessuno. E si cambia da solo il codice, tu stai cercando di tentare di entrare e non vi riesce perché si cambia il codice. E tu di telefono? Oh, Sky c'ho, ma fa mio nipote, che trovagli di osso a Cagliari, e c'ha Sky, più altri consente, la Team c'ha anche, e altri ne ha. Ma è il più buono è Sky. Che avanti Luca, tu sei. Avanti. Ma non mi pare Luca, dice. Ma va, tanto io sto per chiudere, mi sa che ti lascio e vado a portare il cane, tanto è subito ora di chiudere, dai. Sì, già, va benissimo, ci risentiamo alle prossime, ok, se non offendeva domani. Andare, a risentirci, buona chiacchierata, che abbiamo fatto. E buona cena, Gerardo Viva, ci risentiamo alle prossime. E anche agli ascoltoni, quelli con le orecchie grandi, grandi, grandi. Ciao, ciao, ci sentiamo tu. Buona serata, buona continuazione, ciao, ciao. Ciao, già, alle prossime.